Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Ma cosa dicono le estetiste? È che non bisogna mettere lo smalto perché sennò le unghie non respirano. Ma dai, Chiara! Ma vabbè, insomma, non è che lo dicono tutte, insomma, adesso vediamo. Va bene, Möbius, l'unica trasmissione di scienza che vi spiega se le unghie traspirano. Benvenuti, adesso i titoli e poi iniziamo proprio da qui. Le unghie respirano? Questa è la domanda della settimana che ci arriva da Claudio da Macerata. Un nuovo caso di Bella? In questi giorni è esploso il dibattito sulle cosiddette cure compassionevoli e questa volta sono coinvolte le staminali. Ragnatele resistenti agli uragani e insetti con impressionanti capacità di salto. Come gli animali ispirano nuovi materiali e innovative tecnologie. Ripensare il futuro. Un'indagine ha cercato di capire come le imprese guardano alla crisi e alle innovazioni necessarie per uscirne. Eccoci qui. Allora, non è proprio farina del nostro sacco, perché la domanda ci è giunta da un nostro ascoltatore, come sempre. Allora, però, ricordiamo ad inizio trasmissione i contatti. Twitter, Moebius_online. Che siamo fortissimi. Fortissimi. Allora, abbiamo superato il muro dei 32.100 follower. Poi Facebook, Moebius Scienza, e la solita vecchia mail in cui potete scriverci tutto, moebius@radio24.it. Va bene. Ora, sentiamo, tu aspetteresti un'ascoltatrice, invece no, è Claudio. Buonasera, volevo sapere, ma le unghie respirano? Insomma. Respirano, non credo che lui intenda che uno respira con le unghie, no? Allora, adesso io direi di sentire un esperto che, esatto, se ci sono dei passaggi di gas, insomma, vediamo. Ovviamente dobbiamo andare da un onicologo, cioè un dottore delle unghie, e andiamo al Policlinico Cagranda di Milano insieme al dottor Alberto Gorani. Buonasera. Buonasera. Buonasera, Gorani. A lei la parola, ci spieghi. Le unghie, possiamo dire che sono parte degli annessi cutanei, quindi sono delle strutture formate essenzialmente da proteine dure, leonico-cheratine. Ce ne sono di diversi tipi e sono strutture che contengono degli oligoelementi, sono costituite anche da acqua, da un 10-30% di acqua, quindi diciamo che non è il concetto importante la respirazione, quanto piuttosto l'idratazione della lamina e l'adesione di queste cellule, gli onicociti, tra di loro, per quanto riguarda poi la consistenza, la durezza delle lamine. Ma sono cellule vive o morte? Sono cellule che non hanno più il nucleo, sono come le cellule che costituiscono gli altri annessi cutanei, quindi i peli fondamentalmente. Non si può parlare di cellule vive o morte, quindi sono cellule che non hanno il nucleo, sono appiattite, però contengono comunque delle sostanze sia a livello intracellulare che intercellulare. Ecco, ma se sull'unghia metto qualcosa, finisce sotto, voglio dire, un estetista cattiva che volesse mettere del curano... Diciamo che è permeabile l'unghia. È permeabile, quindi le sostanze applicate sopra possono, a seconda dei loro principi attivi o comunque dei costituenti, penetrare più o meno nella lamina e anche nel letto ungueale. Ma quindi, tornando alla battuta che faceva inizialmente Federico, il mettere lo smalto di resina o piuttosto lo smalto classico, ecco, può in qualche modo rovinare l'unghia e fare in modo che questa appunto non respiri o non sia idratata bene? Diciamo che sì, non è una questione di respirazione. Sicuramente possiamo dire che lo scopo dello smalto è sia quello estetico ma anche quello funzionale, quindi ha una funzione di protezione della lamina, quindi non è sbagliato, lo smalto può proteggere la lamina anche dalla disidratazione. Per entrare più nel dettaglio bisogna anche cercare di applicare degli smalti, diciamo, ipoallergenici e comunque con sostanze che non contengano sostanze troppo aggressive, perché comunque se da un lato ci sono gli effetti positivi, quindi di protezione, dall'altro comunque alcune comp- componenti dello smalto potrebbero poi aggredire gli strati superficiali della lamina e quindi portare a forme appunto di friabilità superficiale della lamina. Quindi sarebbe meglio comunque non applicare lo smalto in maniera continuativa, ma in maniera discontinua, quindi almeno sospenderlo un paio di volte alla settimana. Sospenderlo un paio di volte alla settimana? Un paio di volte alla settimana. No, cioè, scusi, si smalta le unghie e dopo due giorni sarebbe meglio toglierlo? Sì, converrebbe comunque non portarlo in modo continuo. Gli smalti, parliamo di smalti, non di resine. Ah beh, perché certo, le resine, adesso Federico ti spiego perché forse non lo sai, le resine sono fatte di quel materiale per cui è semipermanente, viene detto, cioè per 15 giorni, diciamo, più o meno, rimane sull'unghia senza essere rimosso. Sì. Ok, non è colorato. È colorato, può essere di qualsiasi colore. Sì. Ci sono dei vantaggi e anche dei possibili effetti collaterali, quindi i vantaggi sono quelli appunto di esercitare una funzione di protezione e quindi va bene. Mm-hmm. Poi ci sono degli svantaggi che sono legati ad alcune componenti degli smalti, quindi bisogna scegliere smalti ipoallergenici, quindi che non contengano delle resine che possono poi provocare anche corrosione della superficie e anche delle dermatiti da contatto in altre zone, spesso più frequente al viso, no? Perché uno si tocca il viso con le unghie, quindi delle resine che liberano delle sostanze possono proprio provocare delle dermatiti. Ecco, ma senta dottore, con tutte le robe che abbiamo intorno, c'è qualcosa di particolarmente pericoloso per le unghie a cui dobbiamo stare attenti? O particolarmente proprio... pericoloso, penso che con i progressi e i miglioramenti che ci sono continuamente nei prodotti cosmetici, penso di no, anche perché appunto vengono prodotti smalti privi oramai di resine allergizzanti aggressive. E invece leggevo due o tre giorni fa sul Corriere, se non sbaglio, che esistono delle patologie anche piuttosto gravi delle unghie, cioè addirittura possono venire dei melanomi. Una delle ultime ricerche. Sì, esistono delle patologie da sempre, diciamo, sia di ordine pigmentare, quindi che interessano i melanociti, e sono i melanomi e appunto sono tumori della linea melanocitaria e a livello ungueale possono essere molto aggressivi, quindi le bande scure a livello delle unghie vanno sempre esaminate con attenzione e monitorate nel tempo. Insomma, anche il mondo delle unghie è complesso, non c'è niente di semplice qua, non c'è niente più di semplice. Va bene, grazie dottore, buon lavoro. Prego, grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E qui con noi questa sera Amedeo Santosuosso. Buonasera Santosuosso. Buonasera. Giudice del Tribunale di Milano, ma noi ormai Santosuosso ci sentiamo spesso più che altro per questa sua attività insieme. Lei è il coordinatore di questo centro ECLT presso l'Università di Pavia, che si interessa di tutto ciò che è nuove tecnologie, nuove in questo caso terapie, anche tecnologie terapeutiche e appunto giurisdizione e aspetti legislativi. Ci sentiamo, qui non sto a ricordare certo al nostro pubblico, perché probabilmente avranno letto molte cose, sentito anche molti telegiornali, siamo nelle settimane in cui si sta discutendo di applicazioni delle cellule staminali nelle cosiddette cure compassionevoli, sarebbero quelle cure, quelle terapie per le quali non c'è ancora una sperimentazione classica di base, ma che però suscitano molte attenzioni da parte del pubblico. E allora, insomma, diciamo, siamo un po' intorno al caso di Bella, no? Santosuosso, voi insieme ad altri anche scienziati italiani, insomma, avete fatto una lettera, un comunicato su questa cosa. C'è stato un incontro col ministro, la cosa ha avuto anche un certo risalto, questo vostro comunicato è uscito sulla rivista Nature, che noi citiamo sempre come una rivista molto autorevole. Insomma, qual è la vostra posizione e che cosa avete ricavato da questi primi incontri politici? Ma la nostra posizione come gruppo di persone che hanno firmato quel documento è che fondamentalmente nessuna scelta può essere fatta in questo campo che non sia fondata su evidenze scientifiche, perché altrimenti si perde la bussola di qualsiasi tipo di decisione. E in questo caso vi è da dire che se si legge il provvedimento dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, dopo le ispezioni fatte presso il laboratorio Stamina, obiettivamente è descritto in modo comprensibile anche con grande precisione tecnica, però in modo comprensibile anche al grande pubblico, che non solo le procedure sono approssimative, non rispettano gli standard qualitativi, ma anche il prodotto che viene poi somministrato ai pazienti non è esattamente identificabile, non si trovano neanche cellule staminali e via dicendo. Per cui, vabbè, a parte degli aspetti più tecnici che non sono di mia competenza, però diciamo che questo è un po' un punto di partenza della nostra posizione. Il ministro ci ha convocato per, non solamente per la verità, i firmatari era una riunione più ampia, e il ministro in sostanza ha intenzione di creare una rete di supporto scientifico anche per le decisioni che si andranno a prendere da parte sua o da parte del suo successore, naturalmente. Quindi da questo punto di vista chiedeva un confronto e voleva illustrare il motivo delle sue scelte, compreso il decreto ultimo nel quale in sostanza autorizza la prosecuzione dei trattamenti avviati, e spiegare il senso di questa cosa, che era quello di non voler creare discriminazioni tra quelli che avevano avuto un provvedimento favorevole da parte della magistratura e quelli che non l'avevano avuto. Ok, siamo in una situazione molto galleggiante e voi avete mantenuto la vostra posizione, che è piuttosto allora, contraria. È una situazione, diciamo, molto preliminare per quanto riguarda la possibilità di una regolamentazione chiara e precisa. Io personalmente ho ribadito che va bene criticare i provvedimenti dei giudici che, sulla base di un'interpretazione molto astratta dell'articolo 32 della Costituzione, hanno autorizzato e imposto questi trattamenti, però nel momento in cui si chiede ai giudici di tener conto della scienza, dell'evidenza scientifica, allora è necessario che sia il mondo scientifico, ma sia anche il mondo dell'amministrazione sanitaria, dica una parola chiara sul fatto che lì l'evidenza scientifica non c'è. Non c'è neanche l'inizio di un'evidenza scientifica. Allora, se questa è la base, allora, e se questo viene detto chiaramente da chi è tecnicamente in grado di dirlo, allora poi è giusto esigere anche dai giudici un atteggiamento conseguente che tenga conto di questa cosa. C'è una situazione un po' contraddittoria che però, insomma, viene gestita forse quasi più per degli aspetti psicologici, ma forse anche a partire dal fatto che poi l'analisi di questa cosa che viene somministrata, insomma, di questo prodotto, dice che praticamente non ha dentro nulla, insomma, no? Esatto. Io poi la cosa che ho fatto notare è che fare come fa il decreto legge del 25 marzo, che ora è in Gazzetta Ufficiale, e autorizzare la prosecuzione dei trattamenti avviati, eccetera, l'intento di voler evitare discriminazioni può essere anche condivisibile, però secondo me le discriminazioni si evitano adottando un criterio chiaro e preciso, tant'è vero che vi sono numerose persone che a questo punto dicono, ma criticano il decreto legge, e nel senso che si sentono esclusi, dicono, e perché quelli che hanno iniziato fino a ieri possono continuare e io no? E quindi a quel punto siamo punto e da capo. Per cui il concetto di discriminazione va inteso per bene. Dal punto di vista giuridico, la non discriminazione significa avere un criterio chiaro che valga per tutti, non estendere qualcosa in mancanza di prove scientifiche. Certo. Si generano delle strutture che poi dopo è praticamente molto difficile gestire, se non appunto con questi provvedimenti che diventano però dei tappabuchi, anche se sono comprensibili, assolutamente comprensibili dal punto di vista psicologico, no? Umano, sociale. Però qui c'è anche un problema, e questo è un problema che riguarda soprattutto i clinici, non essere i clinici che devono saper comunicare, è un problema di etica anche medica, saper comunicare con le persone che soffrono e che vedono i familiari soffrire, dicendo quello che è possibile e quello che purtroppo non è possibile. Grazie Santosuoso, a presto. Grazie a voi. E dopo il giudice Amedeo Santosuoso andiamo a sentire un tecnico, Camillo Ricordi, che però è uno dei personaggi più importanti in questo campo, nella ricerca sulle staminali, è da anni negli Stati Uniti, è uno degli esperti appunto maggiormente accreditati a livello internazionale proprio nel trapianto di cellule. Dirige la divisione del centro trapianti dell'Università di Miami. Camillo Ricordi, buonasera. Buonasera a lei. Allora, abbiamo appena sentito il giudice Santosuoso che apre, ci ha spiegato, diciamo, una contraddizione evidente, perché con questa definizione di cure compassionevoli, e certo, se alcuni l'hanno presa prima e poi a un certo momento si dice che altri non possono più prenderla, avviene una discriminazione forte. Però qui è la grande contraddizione, bisogna anche essere certi che questa cura, che noi chiamiamo compassionevole e per la quale non discriminiamo, di fatto sia somministrazione di acqua che non fa niente, perché se no procediamo nel concedere la somministrazione di qualcosa che può essere pericoloso. Insomma, siamo a questo paradosso. Allora la prima cosa che le chiedo è cosa ne pensa lei. Senz'altro, e tra l'altro abbiamo appena creato, formato l'anno scorso la Cure Alliance, The Cure Alliance, che è un'organizzazione proprio per cercare di affrontare quella che è la serie di impedimenti e ostacoli allo sviluppo di cure. Però dall'altra parte bisogna stare attenti che questo va fatto sempre nel rispetto della sicurezza del paziente, che deve rimanere centrale, e non dare poi apertura a delle pratiche che sono più vicine alla voodoo science o ai venditori di fumo che le terapie reali. Per cui è un argomento molto importante e complesso, nel senso che bisogna essere sicuri che la cura proposta è sicura per il paziente, che non introduce dei rischi, però allo stesso tempo in casi disperati dove non ci sono terapie alternative bisognerebbe anche rilassare un attimo le regole, nel senso che il rischio va valutato per l'indicazione clinica per cui si pratica questa cura, nel senso, se uno sta morendo in una fase terminale, uno può anche accettare dei rischi un po' più superiori che se uno invece propone una terapia per il diabete in un bambino che potrebbe fare l'insulina tranquillamente. Per cui è una situazione complessa, va valutata la situazione clinica particolare, è difficile avere una regola che viene applicata per tutti trasversalmente. Invece vengo a lei come tecnico, come un personaggio, come chirurgo che fa terapie cellulari. Come siamo messi, Ricordi, arrivati ad oggi rispetto a queste staminali? Dove ci sono problemi? Dove ci sono opportunità? Cosa bisogna fare? Ci sono delle opportunità enormi, perché le terapie con le staminali, soprattutto le staminali adulte e la medicina rigenerativa in genere, penso che sarà una delle più grosse rivoluzioni biotecnologiche a cui assisteremo dopo la rivoluzione nella comunicazione, nel software, nell'energia rinnovabile. Oggi queste tecnologie e terapie avanzate permetteranno di effettuare delle terapie per rigenerare gli organi o per sostituire delle funzioni mancanti che offrono delle prospettive veramente importanti. Grandi. Bisogna distinguere, però è uno di quei campi di frontiera dove bisogna stare molto attenti a effettuare queste terapie in maniera controllata, con un senso di responsabilità, perché ci sono casi, per esempio è stato anche pubblicato il caso di un bambino, un paziente che è partito da Israele, è andato a fare uno di questi trattamenti in Russia, mi pare, ha ricevuto un'iniezione di staminali e torna a tumore al cervello, e poi magari uno muore di tumore al cervello, quello di sicuro quindi non era acqua fresca, acqua pura, come diceva lei prima. Bisogna stare quindi molto attenti chi sono i centri che le effettuano, che sistemi di controllo, di qualità, controlli di qualità e di sicurezza esistono, ma anche ancora più importante è l'obbligo di riportare e di documentare il tipo di terapia effettuata, gli effetti collaterali e i risultati, perché se da una parte deve esserci la licenza e il permesso di trattare i casi più disperati, dall'altra parte questa non può diventare una licenza indiscriminata di effettuare cure non provate senza nessun obbligo di riportarne risultati, effetti collaterali e di documentare la caratterizzazione del prodotto cellulare iniettato. Va bene, Camillo Ricordi, grazie per questo contributo. Voglio ricordare che lei sta per arrivare in Italia con una serie di conferenze, in particolare sul diabete, no? Lei sta lavorando adesso. Sì, terapia del diabete, ma anche sulle terapie con cellule staminali medicina rigenerativa. La prima è a Piacenza venerdì 5 aprile sera, organizzata dalla Confagricoltura di Piacenza, e la seconda è a Pavia l'8 aprile alle 11 all'Università di Pavia, poi sarò a Palermo il 10 all'Istituto Mediterraneo dei Trapianti e Terapie Alta Specializzazione, per poi andare a Roma dove ho due conferenze, una il 12 mattina alle 11 a Tor Vergata e una nel pomeriggio in Vaticano come parte di un'altra conferenza proprio sulle cellule staminali adulte. Ne daremo resoconto casomai di alcuni di questi appuntamenti. Grazie Camino Ricordi. Beh, e la aspettiamo qua in Italia. Grazie, arrivederci, buonasera. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ma com'è possibile? Ragnatele che resistono agli uragani? Certo, certo. Ma no, dai. Dai, abbiamo parlato spesso di ragni, di resistenza, sì, delle ragnatele. Sì, ma questa è grossa. Questa è grossa. No, nel senso che si è scoperto qualcosa in più su come le ragnatele, gli insetti, i ragni, sanno si attaccano. Sì, le attaccano alla superficie di partenza, diciamo così. Ora, l'ho detto in maniera molto semplice, però in realtà è una ricerca piuttosto elaborata che è stata fatta da dei ricercatori dell'Università di Trento in collaborazione con il MIT di Boston, quindi insomma una ricerca di nanomeccanica mica da ridere. E qui con noi stasera infatti c'è Nicola Pugno. Intanto buonasera. Buonasera a tutti voi. Buonasera. E lei è coordinatore di questo progetto e lavora al Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica dell'Università di Trento. Insomma, avete studiato, tanto si sapeva di questa particolarità della seta, della tela del ragno, del fatto che fosse molto resistente, ma ancora non si capiva bene quale fosse il meccanismo di attacco, di aggancio. Sì, detto bene. Noi conoscevamo abbastanza i meccanismi della ragnatela e anche i meccanismi della seta, con seta intendo proprio il filo di ragno. Ultimamente stiamo in viceversa studiando come la legge costitutiva, cioè come è fatta la seta, vada poi a influenzare la robustezza dell'intera struttura. In un primo lavoro abbiamo studiato proprio la struttura ragnatela a seguito di impatto di insetti. Quest'ultimo invece lavoro di cui stiamo parlando più in dettaglio abbiamo studiato proprio l'ancoraggio e abbiamo notato delle cose molto interessanti, cioè che la geometria dell'ancoraggio deve essere ottimizzata in funzione di come è fatta la seta, quindi c'è una ottimizzazione sinergica, per così dire, tra materiale e struttura. E ecco, allora forse dobbiamo specificare che esistono più tipi di seta. Certamente esistono più tipi di seta, addirittura uno stesso ragno può arrivare a costruirne fino a 7 tipi differenti per scopi diversi, quindi seta particolarmente resistente oppure seta particolarmente tenace, cioè in grado di dissipare energia prima di rompersi, quella che serve per fermare un proiettile, in questo caso diciamo un insetto, e seta particolarmente elastica, seta appiccicosa, perché lui quindi, sa insomma, qual è la migliore, sono anche multifunzionali. Lui sa qual è la migliore, il ragno sa qual è la migliore a seconda dei casi. Certamente il ragno sa qual è la migliore a seconda dei casi e utilizza la migliore, ma anche evolve, no? C'è stata un'evoluzione proprio per andare a ottimizzare le caratteristiche della seta del ragno, tanto che adesso il ragno è l'animale che produce la seta con le caratteristiche meccaniche più impressionanti, forse perché per lui la resistenza è più critica che per altri animali. La battuta che faceva prima Federico, la resistenza di una ragnatela all'uragano, in realtà è vero, nel senso che ci devono essere delle condizioni particolari per cui la ragnatela sia ben attaccata, appunto per resistere anche a venti fortissimi, sì, a vento, a pioggia e così via. Esatto, sì, diciamo che in linea di principio se uno fa dei calcoli teorici vede che resiste anche a venti molto sostenuti fino ad arrivare a degli uragani, poi è chiaro che nella pratica il ragno sarà già migrato altrove e l'interesse per la ragnatela non sarà messo al riparo. Costruiscono. Certo, ecco, ma ci dica dell'aggancio. Alla vostra ricerca. Com'è sì, questo aggancio? L'ancoraggio, voi potete immaginare, per semplificare, come un ancoraggio, come un nastro adesivo a V, ancorato a un, per esempio, un soffitto. un nastro adesivo a V, poi io lo tiro, diciamo, in maniera simmetrica. Ecco, questo è l'esempio più semplice, questo sistema Y, più che a V se vogliamo, visto che lo devo anche tirare verso il basso. Questo sistema Y è l'esempio più semplice di ancoraggio. Ecco, a seconda di quale sia il nastro adesivo, in questo caso la seta, diciamo, no? Ma la tipologia di nastro adesivo, io per ottimizzare la resistenza di questo oggetto, di questo ancoraggio, devo andare a considerare degli angoli di questa V che sono diversi in un caso piuttosto che un altro. Quindi la geometria dell'ancoraggio per ottenere un ancoraggio robusto dipende dal come è fatta il materiale che lo costituisce. E c'è da chiedersi anche come faccia il ragno a ottimizzare la geometria, perché non è al goniometro. Come fa ad andare a considerare l'angolo ottimale per massimizzare gli ancoraggi? Beh, abbiamo visto che esiste un meccanismo, per così dire, intelligente. È sufficiente che lui metta in tensione questo ancoraggio e se immaginiamo avesse sbagliato, per così dire, inizialmente gli angoli e fossero troppo piccoli o troppo grandi, ebbene in entrambi i casi, grazie al fatto che la seta è estremamente cedevole, qua non entro nei dettagli perché sennò ci perderemo, ma comunque è sufficiente tirare questo ancoraggio perché alla fine si raggiunga l'angolo ottimale, quindi la resistenza massima. Quindi lui li mette un po' a caso, per così dire, e poi li tira. E poi li aggiusta. Li diventano la geometria ottimale e si robustiscono. Però allora ci deve dire qualcosa in più, nel senso che l'angolo di questa Y che il ragno traccia all'inizio ha un angolo variabile. Voi avete studiato anche il rapporto di questi angoli, cioè più la V, come dire, si allarga, quindi l'angolo è maggiore, più è la resistenza. Come funziona? No, ecco, proprio come dicevo io, nel senso che esiste un angolo ottimale, cioè non è che io devo, anzi inizialmente questa cosa che dice lei è una cosa che qualche biologo pensava, cioè che bisognava andare a fare la V più larga possibile, e questo era il modo per massimizzare l'adesione. È una cosa che pensavano i biologi, in particolare io l'ho chiesto esperti di adesione, no? Lei calcoli che anche i gechi funzionano più o meno in questo modo, hanno questi ancoraggi, tendono ad avere queste zampette che fanno queste V anche loro con le dita, e mi dicevano che no, lì l'unica strategia è quella di andare a farle più ampie possibili, ma invece non è vero, esiste un angolo ottimale, quindi non è la strategia che c'è per un certo materiale, l'angolo non so è di 30 gradi, se lo faccio di 25 o di 35 ottengo un elemento che è meno resistente. Quindi è la combinata tipo di seta con l'angolo che il ragno studia. Esattamente, per ogni tipologia di seta lui ha necessità di costituire un angolo diverso per massimizzare la resistenza dell'ancoraggio, okay. Che poi non è una cosa stravagante, no. La facciamo anche noi ingegneri, cioè quando andiamo a progettare delle strutture, a seconda del materiale che utilizziamo la struttura deve avere una forma differente, certo. Queste sono cose che noi sappiamo anche, non so, nei ponti, pensate per esempio ai ponti ad arco, quando voglio utilizzare un materiale che è molto resistente a compressione ma non è resistente a trazione, devo farlo per esempio ad arco in maniera tale che, diciamo, non si abbiano al suo interno delle caratteristiche di trazione, sia tutto compresso. Quindi non è una cosa stravagante, però diciamo che non era mai stata osservata in questi sistemi in precedenza. Pugno, in conclusione abbiamo pochissimi secondi, lei è ingegnere, come mai si prende la briga di studiare le ragnatele, a che ci serve? Per un ingegnere è anche interessantissimo, perché noi facendo materiali bispirati o strutture bispirate possiamo realizzare delle strutture, delle proprietà meccaniche tuttora irraggiungibili. Va bene, grazie davvero Pugno, buon lavoro. Buon lavoro, arrivederci. Credo che non vi siano relazioni tra i ragni e le cicale. Beh, relazioni d'amicizia non credo, no. Però in realtà la relazione te la trovo io, perché sono entrambi insetti, animali, che ispirano, come dire, dei nuovi materiali, delle nuove tecnologie. Appunto abbiamo appena parlato di scienza dei materiali con le ragnatele e le loro straordinarie capacità di resistenza, e ora ci spostiamo invece parlando della cicalina verde e della sua straordinaria capacità di salto. Perché? Perché l'ha studiata sempre un centro di ricerca, uno tra i più illustri tra l'altro del nostro paese, l'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell'Università di Pisa. Qui con noi stasera c'è Giovanni Benelli, buonasera. Buonasera. Lei è ricercatore presso questi dipartimenti e insomma anche voi siete andati a studiare un insetto per le sue straordinarie capacità nel fare qualcosa. Nel saltare. La cicalina verde è uno dei più efficienti saltatori del mondo ed è per questo che è capace di decollare in pochi millisecondi e per questo il nostro gruppo di ricerca l'ha scelto come insetto modello per studiarne la biomeccanica del salto. Ecco, però Benelli, senta, noi abbiamo tutti l'immagine, per esempio andando in Grecia, della cicala come un animale che invece è fermissimo. Questo non è proprio quella cicala lì, un'altra? No, non è per niente una cicala. Questa qui si chiama cicalina verde, ma in realtà non è una cicala, è un cicadellide. Sono quei piccoli insetti che vedete saltare, per esempio, nei vigneti, nei prati, di colore verde-azzurrino. Sono rincoti omotteri che si nutrono della linfa delle foglie, ma generalmente non sono dannosi alle colture e sono dei saltatori abilissimi. Quindi sono lunghi meno di mezzo centimetro, piccolissimi. E sono molto più efficienti nel salto rispetto a un grillo. Andate a vederli sui motori di ricerca, mettete Cicadella viridis, questo è il nome scientifico, giusto? Sì. Ecco, e qual è, insomma, la straordinaria capacità? Abbiamo detto di saltare, ma perché così straordinaria? Beh, abbiamo visto che la cicalina verde è intrinsecamente dotata di un meccanismo che le permette di ottimizzare il salto allo stesso tempo salvaguardando le zampe e l'integrità del substrato da dove essa decolla durante la fase di spinta a inizio salto. Ah, perché, questo è molto interessante. Perché potrebbe avere una spinta talmente forte da rovinarsi. Certamente, da rompere la zampa o da danneggiare il substrato. Ho capito. E lei capisce che questi animali usano il salto come strategia cruciale per tutte le attività della loro vita, per cercare il cibo, per sfuggire ai predatori, per cercare un compagno con cui accoppiarsi. Quindi la loro capacità di spostamento deve essere estremamente efficiente. Mm-hmm. E nel dettaglio questo animale ha sviluppato una strategia molto particolare per ottimizzare il suo salto. E lo studio di questo vi può ispirare nella costruzione o nell'applicazione di mini robot? Sì. Il risultato più importante che poi abbiamo cercato di traslare da un punto di vista biorobotico è stato che la forza muscoloelastica generata da questo animale, dai muscoli di questo animale durante il salto, viene trasformata, convertita in una forza costante nell'interfaccia tra le zampe e il suolo. In questo modo la cicalina ottimizza il suo salto, lo rende più efficiente e evita la possibilità di danneggiarsi. Questo noi lo abbiamo traslato anche da un punto di vista biomeccanico e l'idea è utilizzare dei piccoli automi bio-ispirati alla cicadella viridis che possono essere utilizzati in tantissime situazioni applicative, anche di estremo rischio per le persone. Ad esempio? Ad esempio possiamo dotarli di sensori particolari per rilevare fughe di gas o particolari chimici pericolosi in contesti di rischio o di disastro dove l'uomo, se non interviene meglio. È quindi meglio, possiamo certo utilizzare questi mini automi come sonde e come rilevatori di situazioni di rischio. Ma ne avete già un po' che vi saltano l'intorno oppure li state costruendo? Ne abbiamo qualcuno che ci salta d'intorno. Ah, vede. Va bene, grazie Benelli, davvero buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci, buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Economie, ma con un riferimento proprio anche all'ecologia. Potremmo incominciare da questo, cioè con questo titolo di un appuntamento nel quale ci si interesserà dei modelli collaborativi, cioè di come si può lavorare meglio con attività che dal punto di vista della collaborazione sono particolarmente studiate, ma in questo appuntamento c'è anche al centro un tema molto importante che è quello, il titolo è Ripensare il futuro e questo è stato l'oggetto di una indagine che è stata fatta presso imprese per vedere come in un momento come questo estremamente difficile, nel quale però guardare in avanti è certamente una tensione che esiste, che impressioni hanno, che sensazioni hanno le imprese rispetto a questo futuro, all'innovazione che si può mettere in campo, a come anche prevedere l'uscita da questa crisi con i profondi cambiamenti che ci saranno. Tutto ciò avverrà in un seminario abbastanza grosso, insomma, perché occupa tutto il pomeriggio a Reggio Emilia il 5 prossimo, cioè la prossima settimana. È organizzato da un'azienda, la Car Server, che si interessa di gestione delle flotte automobilistiche, ma non è questo il punto. Il problema è che è un'azienda a responsabilità sociale. Sono aziende particolarmente impegnate nel sollevare questioni di tipo sociale, di cambiamento culturale, sono aziende che appunto finanziano progetti come questo, appuntamenti come questo. E in questo appuntamento ci sarà anche una lezione particolare di Jeremy Rifkin, che sappiamo essere un analista dei processi di tipo economico, storico, innovativo, tecnologico. E per avere dati su tutto questo vi rimandiamo al nostro sito, ci sarà anche uno streaming, insomma lì vi diamo le indicazioni. Ma adesso io ho qua questa sera Donatella Barberis, buonasera Barberis. Buonasera. E Rossella Elisio, buonasera Elisio. Buonasera. Siete due ricercatrici dello studio APS. Lo studio APS praticamente si interessa di queste cose che vi ho detto io prima, e voi avete fatto una ricerca coinvolgendo un certo numero di aziende con delle interviste, non quelle rapide, insomma quelle che vanno in profondità, per riuscire a capire in che modo le imprese guardano al presente e al futuro dal punto di vista dei cambiamenti. Che tipo di risposte, che tipo di scenari sono emersi, Rossella Elisio? Sì, come anticipavi, quello che abbiamo fatto è avviare, pensando che potesse essere interessante andare ad ascoltare le imprese, quindi lì dove loro stanno affrontando la crisi, abbiamo avviato una ricerca qualitativa con delle interviste che, come tu annunciavi, sono state delle interviste non rapide, anche se poi questo forse era un mandato iniziale, che in alcuni casi sono durate persino 2 ore e mezza. Quindi abbiamo ascoltato quindi il punto di vista di imprenditori e di manager di settori differenti. Si è trattato di una ricerca qualitativa, quindi che aveva delle piste prefissate, certo che avevamo delle ipotesi di riferimento, ma era una ricerca che andava un po' alla scoperta. Quello che è venuto fuori, fra l'altro si trattava di imprese rappresentate da donne e da uomini, imprese che avevano delle storie di decenni alle spalle, piuttosto che imprese che si sono definite native della crisi, perché magari una addirittura aveva meno di un anno d'età. Quello che è successo e che ci ha anche sorpreso in un certo senso è che mentre il mantra generale in cui siamo tutti immersi quotidianamente nel micro e nel macro è bisogna uscire dalla crisi, bisogna chiudere questo capitolo, un po' sì. La gente non ne vuole più sapere della crisi, quello che abbiamo scoperto è stato che nella crisi si può stare. Nella crisi forse è necessario più che si può, perché ovviamente queste imprese non lo fanno per scelta di stare nella crisi, sì. Ma quello che emerge è che la crisi, che è una crisi che attraversa non solo una dimensione economica, ma una dimensione sociale, di valori, di relazioni, è una crisi che chiede di essere conosciuta, quindi sì. Forse è una crisi da cui possiamo sviluppare delle comprensioni. Una delle questioni che sicuramente emerge è che la crisi è anche un luogo dove si maturano fallimenti, dove ci sono aziende che fanno fatica, delle aziende che non ce la fanno. Quello che noi abbiamo scelto è di provare a contattare delle realtà in cui fosse un po' più rintracciabile la questione della possibilità. Cioè abbiamo deciso di andare ad ascoltare delle aziende che si stanno provando, che stanno sperimentando, che si stanno attrezzando a stare in un modo possibile nella crisi, lavorando su alcune questioni. Donatella Barberis, lo chiedo a lei, Non è che ovviamente, non credo che esistano aziende che appunto sono contente di stare nella crisi, però la diversità che voi avete colto molto importante è si può vivere questo periodo, come dire, chiudendosi in uno sgabuzzino dicendo esco quando è passato, oppure si può pensare che sia un momento che va gestito e nel quale possono nascere anche idee nuove, possono nascere anche strumenti di cambiamento importanti. È questo che voi avete rilevato come stiamo dentro la crisi? Corrisponde a quanto stai dicendo, perché appunto come si può stare, come stanno facendo, insomma, chi ce la sta facendo ovviamente, no? Allora, sicuramente non si tratta di innovazioni straordinarie, non sono ricette magiche, quindi che spiazzano, ecco, o parole nuove, ecco, per chi conosce un po' le organizzazioni, i termini sono proprio quelli del paradigma tradizionale, però quello che cambia in modo radicale è il modo con cui si fanno i conti con questi strumenti, con queste prassi e con questi, diciamo, anche con i soggetti. E ci sono due movimenti che ne abbiamo registrato interessanti. Il primo è di valorizzare molto di più quello che si ha, quindi fare con ciò che si ha, sì, quindi senza sprecare, guardando diversamente alle risorse, ma non solo economiche, quindi anche in termini di capitale sociale, e fare i conti con i problemi, senza mandarli, senza buttarli via, senza avere questa fretta di eliminarli, ma farli diventare un po' delle occasioni di ripensamento che davvero ti mettono in crisi, nel senso che ti interrogano su come tu hai funzionato fino a quel momento. Quindi la crisi come una risorsa che apre delle finestre su cose che probabilmente si dovevano già fare prima, capire prima, e che quindi adesso si vedono come cose importanti. Questo vuol dire che c'è una tensione verso dei cambiamenti abbastanza importanti. Sì, infatti l'altro movimento è un po' più spostato verso l'esterno, quindi c'è un grande investimento nella conoscenza, intesa appunto non solo come formazione delle persone, ma anche come investimenti sugli strumenti di conoscenza, anche strumenti informativi, ma come una capacità più culturale di mettersi in sintonia con il contesto e con questa domanda fortissima che c'è, ormai trasversale nella società, e che le aziende impattano sui consumi, sui prodotti, che è una domanda davvero di trasformazione, di cambiamento, che attraversa la sfera valoriale, quindi dire, proprio parlando di questioni molto concrete, i consumatori sono prima cittadini ormai, chiedono che le cose siano prodotte in un certo modo, con attenzione all'ambiente, che non siano le persone che le producono siano soggette a sfruttamento, cioè c'è tutto questo tema dell'etica, dei valori, che è una domanda che le aziende, dicevamo noi, insomma, nell'osservatorio che abbiamo visto, loro lo impattano dal punto di vista proprio della gestione dei prodotti e dei processi, ma la domanda più grande è una domanda che arriva anche alle istituzioni, alle amministrazioni. Sì. Quindi per le aziende, diciamo, si tratta di mettersi in sintonia con queste istanze nuove, questa è proprio la cosa nuova, diversa, assumendo che non è più tempo di ripristini, no? Di metterci una pezza e non guardare perché non aveva funzionato. E forse è il momento di provare a fare dei cambiamenti un po' più coraggiosi e di dirigersi, no? Di provare a dirigersi in un, noi usiamo questa metafora un po' del viaggio, in un viaggio di cui non conosci l'approdo, però quella è la direzione che devi prendere, no? Rossella Elisio, quello che mi sembra, adesso per concludere brevemente, è che viene colto in una situazione assolutamente difficile, perché questa non è una delle tante crisi che abbiamo attraversato. Le altre crisi erano dei momenti di divertimento, dei balli in maschera rispetto a questa, però allora viene colto questo aspetto di grandi cambiamenti, di grandi mutamenti. Poi magari non sanno ancora con precisione tutto, però c'è questa tensione. Sì, questa questa tensione è il fatto che al cambiamento non si deve necessariamente c'è la possibilità di non soccombere al cambiamento, che il cambiamento va conosciuto e forse anche con posizioni un po' spiazzanti, perché il mantra di un po' di tempo fa che chiunque dicesse delle cose diverse dalla direzione data si opponeva al cambiamento, forse va un po' ripensato, forse vanno ascoltate anche voci e piste divergenti, perché effettivamente questo ci impone di stare in una situazione di non equilibrio, di equilibrio precario, in cui però si possono scoprire anche delle possibilità. Ecco, questa vena che per alcuni viene sintetizzata un po' come l'ottimismo, perché qualcuno ci ha detto: ma allora voi siete un po' ottimiste. Invece a noi sembra che sia non tanto l'essere ottimiste, ma pensare che ci possono essere delle possibilità, cioè bisogna tentare. Ecco, non mi sembra che abbiamo tante altre chance, ma che non si tratta di, come dicevi tu, chiudersi nell'antro a pensare, o nell'opposto, intraprendere viaggi di grande distanza per trovare qualcosa di magico che ci risolva, ma proprio stare dove siamo, guardarci intorno, guardare con chi e come, a volte anche con strumenti a disposizione, con pensieri a disposizione, ma che devono diventare pratiche, si può provare a non essere travolti. Insomma, il famoso si può fare. Seguiremo poi questa giornata a Reggio Emilia, nella quale, ricordo, ci sarà anche una lezione magistralis di Jeremy Rifkin, che è uno che si è interessato di questo tipo di processi a livello mondiale, il 5 aprile prossimo. Grazie Donatella Barberis, grazie Rossella Eliso dello studio APS. Grazie a te. Andate al nostro sito www.mebiusonline.eu e lì trovate altre indicazioni su questo appuntamento. Dunque, siamo in conclusione della trasmissione, però prima dobbiamo dirvi qualcosa sulla scorsa puntata di Möbius, nella quale abbiamo presentato una ricerca svolta da un istituto del CNR, ricerca dalla quale risultava che i genitori italiani sono iperapprensivi rispetto a quelli di altri paesi e quindi, per esempio, accompagnano a scuola i loro figli, le loro figlie, fino anche ai 13-14 anni. Dopodiché abbiamo ricevuto una serie di mail, anche di Twitter, nei quali ci si ricordava, e qui certo noi non ci abbiamo pensato, che in Italia ci sono delle regole, ci sono delle leggi che prevedono un certo obbligo da parte delle famiglie di seguire i propri figli e le proprie figlie quando vanno a scuola, il che vanifica completamente questo tipo di ricerche, e siamo un po' sorpresi, perché insomma, certo, possiamo anche fare una ricerca notando che la stragrande maggioranza degli italiani non spara con dei cannoni da 120 mm dai terrazzi. Perché? Anche perché ci sono delle leggi che effettivamente impediscono, puniscono questo tipo di azioni. Allora non abbiamo ben capito come mai si è fatta una ricerca di questo genere, forse dovevamo informarci meglio prima e ci scusiamo. Questo è tutto per questa puntata di Möbius, ci vediamo qui fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.